e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, ben ritrovati a Cuore e Denari, splendida giornata di sole, finalmente qua, basta, primo marzo, dai, su. Ho guardato però il weekend, ma... Sì, non diciamo non dico niente. Non guardiamo mortificarmi subito queste mie previsioni. Guardiamo sempre il bicchiere mezzo pieno. Esatto, faremo tante cose belle nel weekend. Se dovesse piovere io andrò in palestra, andrò al cinema, tu lo stesso. E quindi insomma le cose da fare si trovano. Detto questo però guardiamo quello che facciamo stamattina. Io mi occupo di un tema che ci piace molto, la casa. Oggi faremo un piccolo focus sull'acquisto della casa sulla carta. Sai cosa significa? No, ma tu mi spiegherai tutto. Non la casa fatta con la carta da gioco naturalmente, ma la casa comprata direttamente dal costruttore. Una bella opportunità naturalmente, perché poi te la confezioni come meglio credi, vedendotela crescere sotto gli occhi. Però ci sono anche dei rischi, costruttori che possono fallire, tempi di consegna incerti, e per il mutuo come fai, ci sono tante cose. Però ci sono anche degli incentivi fiscali del governo, per cui fantastico. Partiamo dal bicchiere mezzo pieno, come allora dici tu. Invece nella seconda parte noi continuiamo con il nostro progetto La Salute Vien Parlando, in collaborazione con gli esperti di Humanitas. Nuovo mese, nuovo tema. Dopo le articolazioni parliamo della nostra pancia, un tema che si lega anche un po' al tuo, perché comprare casa fa venire anche un po' di apprensione. Noi sappiamo che la nostra pancia, c'è il secondo cervello, quindi ansie, preoccupazioni, timori si riflettono tutte lì. 800 24 00 24, il nostro esperto sarà il professor danese di Humanitas, e faremo anche una diretta Facebook. Ottimo, benissimo. Io invece allora, come iniziative speciali, propongo un sondaggio su Twitter sull'acquisto della casa sulla carta. Mi piace, andiamo. Qua scombiniamo un po' tutti i piani dei nostri ascoltatori. Intanto partiamo velocemente anche con la borsa. A proposito di bicchiere mezzo pieno, oggi lo vede anche il mercato finanziario azionario europeo. Tutto in positivo, abbiamo rialzi ben superiori al punto percentuale a Parigi e Francoforte, mentre Milano, capofila dei rialzi europei, guadagna un punto e mezzo. Grazie a questi titoli, a due grandi gruppi che hanno pubblicato i loro conti proprio nelle ultime ore. Moncler li ha pubblicati ieri sera, titolo in rialzo del 3%. Eni invece li ha comunicati stamattina prima dell'apertura dei mercati, e anche il titolo del cane a sei zampe è in rialzo di 3 punti. Riduce molto le perdite, la società ha 1 miliardo e 464 milioni di euro e conferma il dividendo a 80 centesimi di euro per gli azionisti, di cui un acconto di 40 centesimi da erogare in settembre. Intesa San Paolo, miglior titolo bancario, più 2,82% dopo lo stop al dossier su Generali che è stato definito nelle fine settimana. In ribasso abbiamo invece Mediaset che perde un punto, Yux Net-a-Porter meno 0,58%, Tenaris meno 0,45%. Ieri sera stop anche ai record di Wall Street. C'era grande attesa per il discorso della nottata di Donald Trump, che ha detto tante cose interessanti ma non è entrato molto nel dettaglio del famoso piano di stimoli fiscali che verrà lanciato presumibilmente la prossima estate, quindi mercato ieri un po' freddo. L'euro a 1,0537 sul dollaro. Partiamo subito con il nostro approfondimento di oggi. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva far la pipì perché non c'era vasino lì. Voglio sentire tutta. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero 0. Vabbè, non saranno tutti matti quelli che vogliono comprare una casa di questo tipo. Magari è banalmente una casa che è in costruzione, certo, e quindi si firma un contratto con un costruttore che si impegna per noi appunto a edificare la nostra nuova casa. Casa dolce casa, un'operazione sempre emotivamente impegnativa, quella dell'acquisto della propria abitazione. Ancora di più se si compra casa sulla carta, ovvero un immobile in via di costruzione. Una compravendita che è molto diversa dalle altre transazioni immobiliari, soprattutto per la garanzia che il costruttore è tenuto a dare all'acquirente per tutelarlo in caso di fallimento. C'è una legge che prevede una fideiussione bancaria da produrre già al momento del preliminare. Intanto va segnalato che il 2017, lo hanno detto alcuni osservatori, sta dando segnali di ripresa sul fronte degli immobili acquistati sulla carta, grazie anche al fatto che il governo ha prorogato per per tutto l'anno una serie di incentivi fiscali, sgravi sull'IVA a favore di chi acquista un'abitazione nuova in classe energetica A o B. Però, capitolo dolente, ricordiamoci in passato che ci sono stati molti casi di costruttori falliti prima di ultimare gli immobili, mandando in fumo l'investimento, il denaro anticipato da molte famiglie. Possono ripetersi oggi questi casi? In teoria no, grazie ad una legge del 2005 che obbliga il costruttore a rispettare tutta una serie di paletti, a consegnare una fideiussione, lo dicevamo prima, all'acquirente nel momento del preliminare di compravendita, e questa serve da garanzia in caso di fallimento. E allora parleremo di tutto questo questa mattina con il nostro ospite, un ospite super partes, abbiamo chiamato un notaio per farci un po' l'ABC dell'acquisto della casa sulla carta. Grazie, abbiamo il piacere di avere con noi Valentina Rubertelli, consigliere nazionale del notariato, notaio in Reggio Emilia, se non sbaglio, vero? Notaio Rubertelli, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Grazie naturalmente per Reggio Emilia, sì, te lo confermo. Allora, acquisto in costruzione, la tutela nella compravendita di un immobile da costruire e anche peraltro il titolo di una delle varie guide per il cittadino scritte dai professionisti del Consiglio Nazionale del Notariato in collaborazione con le associazioni dei consumatori. Ne avete scritte tante in questi anni e questa è una delle tante, no? Perché voi siete da anni, notaio Rubertelli, impegnati in questo tavolo con tutte le associazioni dei consumatori. Sì, è stata un'iniziativa adottata dal Consiglio Nazionale del Notariato, da chi mi ha preceduto, quindi io non ne ho nessun merito. Beh, anche mantenere l'eredità in maniera... Anche quello, infatti, esatto. bisogna, diciamo, le prime generazioni fanno, però quelle successive non devono distruggere. E mantenere, esatto. E quindi noi dobbiamo assolutamente impegnarci a farlo e sicuramente, appunto, come diceva lei, questa è una delle tante guide. Si è si è instaurato questo tavolo con i consumatori e si è tenuto fede all'idea di prevedere appunto delle istruzioni per l'uso molto semplici e molto godibili che i consumatori potessero avere a loro disposizione proprio sui temi più caldi, quindi infatti la casa, la famiglia e anzi mi permetto di fare uno spot della prossima guida che uscirà e nella quale vi coinvolgeremo sicuramente. Assolutamente, noi siamo qua. Sulle fragilità e quindi è anche un altro tema che mette in luce come il notariato comunque è vicino al cittadino e soprattutto al cittadino debole. È un tema molto molto cuore denari. Esatto, è molto cuore denari perché è vicino all'uno e all'altro tema. Il tema della fragilità, insomma, della famiglia, Nicoletta, per cui ne parleremo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista del cuore. Benessere, esatto. Allora, andiamo, intanto segnalo appunto ai nostri ascoltatori che soprattutto per gli appassionati di Twitter che abbiamo lanciato questo sondaggio, comprare case in costruzione, cosa vi spaventa di più? Al momento il 68% di chi risponde dice di temere il fallimento del costruttore, il 13% i tempi di consegna e il 19% invece pone qualche dubbio su quello che potrebbe essere la qualità tecnica dell'edificio che gli verrà consegnato. Per cui continuate a rispondere, vediamo un po' che cosa si agita nel vostro cuore, se stiate accarezzando l'idea di comprare una casa sulla carta. Allora, notaio Rubertelli, però se ce la regalate avvertiteci, sì, esatto, modello scaiola, esatto, cadere dalle nuvole. Se ce la dovete proprio regalare, regalatecela in un bel posto, ecco. Roma vicino al Colosseo come scaiola, insomma, non era proprio disdicevole. Allora, notaio Rubertelli, la legge 20 giugno del 2015 122 ha introdotto delle novità molto importanti. Parliamo già di una legge che ha 12 anni di esperienza, appunto, e operatività sulle spalle, però ancora vale la pena ricordare quali sono le tutele a garanzia dell'acquirente che questa misura legislativa ha introdotto. Certo, diciamo che le misure che sono più nell'occhio del ciclone e che sono più visibili sono rappresentate dalle garanzie della fideiussione, della postuma decennale che sicuramente approfondiremo, anzi è opportuno farlo, però quello che ci tenevo a sottolineare ai nostri ascoltatori è una cosa, e cioè che tutto o quasi tutto quello che andremo a dire oggi si scioglie, direi, come neve al sole se il compromesso che andiamo a firmare con il costruttore sulla carta ci limitiamo a farlo su un modulo prestampato privatamente con il costruttore senza affidarci ad un professionista appunto super partes come potrebbe essere quello del notaio. Molto spesso si prende un po' sotto gamba il modulo, proprio perché magari è uno di quelli prestampati, quindi si pensa che la cosa non possa avere delle ricadute, non possa avere delle conseguenze. Invece quel modulino così semplice, in realtà è un vero e proprio compromesso. Questo notaio, lei lo precisa, perché comunque non è un obbligo da parte del costruttore far firmare questo compromesso con una modulistica precisa? Allora, nella legge di cui parliamo oggi è previsto che il compromesso debba avere un determinato contenuto, però naturalmente dipende da chi compila quel contenuto. Ovvio. Per cui se si prende un modulo prestampato, magari non fatto, diciamo, in conformità a quelle che sono le regole previste in questa normativa, si rischia ovviamente di non fare le cose fatte bene. Ma soprattutto il modulo prestampato non è tanto il fatto che sia prestampato o meno il problema, ma il fatto che è una scrittura privata, quindi non è controllata da parte di un soggetto terzo, il notaio, che fa ovviamente una serie di controlli e di consulenze, ma soprattutto non può entrare nei registri immobiliari, cioè noi quel modulo non possiamo andarlo a trascrivere. E trascrivere è fondamentale per acquisire la tutela delle tutele, che è la prenotazione. Notaio, ci dobbiamo fermare perché abbiamo suggerimenti per chi è in viaggio, poi specificheremo ancora ulteriori aspetti di questa parte della compravendita, quindi siamo ancora in una condizione di compromesso e preliminare. Che cosa fa il notaio in questa fase, se ci accompagna a firmare appunto il compromesso davanti ad un costruttore, che cosa controlla esattamente affinché poi tutta l'operazione naturalmente proceda regolarmente, dentro tempi prestabiliti noi possiamo entrare in possesso della nostra nuova abitazione acquistata direttamente dal costruttore. A tra poco. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta Cuore e Denari. Take me back, I've been away too long. Take me back to my home, sweet home. Continuiamo a parlare dell'acquisto di una casa in costruzione. Con noi ancora il notaio Valentina Rubertelli, consigliere nazionale del notariato. E se volete anche spazio alle vostre domande all'800 24 00 24. Notaio Rubertelli, stanno già arrivandoci delle domande a proposito dell'obbligatorietà della fideiussione. Adesso ci arriveremo. Intanto, in fase preliminare, firmato e compilato questo documento che ci impegna il costruttore nei confronti dell'acquirente, ma anche viceversa, appunto. Che tipo di controllo esercita il notaio in questa fase? Che cosa controlla che sia tutto a posto? Sì, il tutto a posto è effettivamente un termine molto generico, però insomma andiamo a declinarlo, nel senso che sicuramente la prima cosa da fare è vedere se chi vende ha i poteri per farlo, quindi se è il reale proprietario e se per esempio si tratta di una società, se il rappresentante si è fatto autorizzare dagli organi competenti, dal consiglio di amministrazione, dall'assemblea, da quello prevede lo statuto. Quello che normalmente terrorizza i nostri clienti, i cittadini in generale, è che il terreno su cui viene costruita la casa possa essere ipotecato, perché sappiamo che l'ipoteca del terreno poi ovviamente si espande e si trasmette alla costruzione che viene realizzata. Questo sicuramente non è un fatto anomalo, perché sappiamo bene che i costruttori si finanziano con dei finanziamenti bancari, certo. Quindi naturalmente le banche chiedono delle garanzie, però quindi la cosa che compaia un'ipoteca non deve terrorizzare, deve invece terrorizzare il fatto che se appunto non viene esplicitato nel compromesso il fatto che il costruttore si debba impegnare o a frazionare l'ipoteca oppure a cancellarla, allora sì che potrebbero nascere dei problemi, perché chi compra poi comprerebbe il bene con tutta l'ipoteca sopra. Controllo fondamentale, l'ultimo, è che quindi si tratti, cioè facciamo gli acquisti sulla carta, benissimo, però non li facciamo prima ancora che il costruttore non abbia almeno ricevuto e ottenuto il permesso di costruire, perché molto spesso si anticipano troppo i tempi, quindi chiediamo quantomeno la copia dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire, altrimenti tutte le tutele di cui parliamo stamattina non trovano applicazione. Ci spiega meglio il concetto della prenotazione dell'immobile mediante trascrizione? In che cosa consiste questa fase così importante che tutela veramente l'acquirente dell'immobile acquistato sulla carta? Io ho, diciamo, in mente un'immagine, il fatto di poter mettere una sorta di bandierina rossa su questo bene. Prenotarlo vuol dire far sapere, quindi trascrivere e avere quindi questo effetto prenotativo della trascrizione, significa far sapere non soltanto al costruttore, ma a tutti i terzi che andranno a consultare i registri immobiliari, che sono dei pubblici registri, che io su quell'immobile mi sono prenotato, quindi che ho diritto di acquistarlo io e nessun altro, per cui se il costruttore nel frattempo fa il furbo e lo vuole andare a rivendere altre 10 volte ad altre persone, non lo potrà fare, ma soprattutto se il costruttore dopo subisce un'ipoteca, un pignoramento o qualche altra cosa, io vengo prima di tutti gli altri e quindi mi farò un baffo di tutte le formalità che verranno dopo di me. Ecco, quanto costa all'acquirente che fa, che mette questa, issa questa bandierina sul suo immobile che ancora non c'è concretamente, davanti appunto al notaio deve sostenere delle spese, notaio Rubertelli? Allora, la legge, la normativa fiscale prevede che qualsiasi compromesso, anche se fatto sul modulino prestampato, debba andare alla registrazione, quindi io l'imposta di registro, che è lo 0,50% sulla caparra, la devo comunque pagare, notaio o non notaio, però in ogni caso questo 0,50 me lo recupero sull'imposta definitiva se quell'imposta sarà l'imposta di registro. Ma in ogni caso andare dal notaio significa appunto avere la possibilità di entrare invece in quella vetrina e avere la bandierina rossa, e quindi per fare questo ovviamente il notaio anticiperà delle spese per fare i controlli, le misure ipotecarie, le misure catastali, ma queste spese comunque l'acquirente le doveva affrontare o prima o dopo, quindi è soltanto un'anticipazione e quindi non saranno poi raddoppiate in sede di definitivo. Allora, la parcella, e ovviamente qui veniamo alle dolenti note, perché è quello su cui le persone fanno purtroppo più attenzione, e la parcella del notaio sappiamo non esistono più le tariffe, quindi è liberamente contrattabile, ma in ogni caso è evidente che il notaio che ha seguito la stipula del preliminare ne terrà conto in sede definitiva. Certo, qualche ora di tempo alla ricerca di tutta la documentazione appunto relativa alla regolarità di questa transazione l'avrete fatta, ti dico, quindi è giusto che anche voi veniate remunerati. Si può trattare appunto anche per quello che vi riguarda sulla tariffa, ricordiamoci che però voi siete garanti appunto di tutte queste operazioni e quindi mettete il sigillo ed è molto importante questo aspetto. Allora intanto le anticipo, notaio Rubertelli, che ovviamente come ci aspettavamo molte domande stanno arrivando a proposito di casi di persone che hanno fatto la compravendita appunto di un'abitazione ancora in costruzione, ma parliamo anche di situazioni che sono finite male con appunto fallimenti immobiliari, casi che si sono verificati tante volte in passato, e questo è il motivo anche per cui è dovuta intervenire questa legge, no, notaio? Certo, infatti che la legge sia entrata in vigore nel 2005 è appunto un segnale, perché in quel momento erano venute proprio in evidenza tutte quante le magagne, ma è proprio per questo che una delle principali garanzie che il legislatore ha previsto è proprio quella della fideiussione, cioè al momento di firmare il compromesso il costruttore, cosa che fino ad ora non era esistita in rerum natura, comunque deve consegnare una fideiussione rilasciata da un istituto che sia iscritto in un determinato elenco, quindi che offra ovviamente determinate garanzie, e una fideiussione che garantisce quindi chi anticipa dei soldi dalla firma del compromesso fino al rogito, che li anticipi a titolo di caparra, a titolo di acconti o quant'altro, la restituzione di questi soldi da parte della banca o dell'assicurazione che ha rilasciato la fideiussione, se il costruttore dovesse andare in crisi prima della firma del rogito. È obbligatoria, notaio Rubertelli, la fideiussione, il costruttore non può nicchiare su questo aspetto? Non solo non può nicchiare, ma addirittura è previsto che chi è dall'altra parte, cioè il promissario acquirente, non vi possa rinunciare. Quindi il fatto di dire vabbè, chiudo un occhio, mi accontento, mi piace troppo la casa, quindi non conviene a nessuno, perché la legge prevede che il contratto è nullo, quindi chi ha venduto come se non avesse mai fatto e chi ha promesso di comprare come se non l'avesse mai fatto. Quindi in che fase va stipulata, notaio Rubertelli? La fideiussione va consegnata assolutamente al momento del compromesso. Ecco. Quindi compromesso o preliminare, che sappiamo essere termini equivalenti, e deve, siccome nel preliminare sono previste le somme che vengono, vengono anticipate a titolo di caparre, poi gli acconti programmati per, diciamo, in fase di avanzamento lavori, la fideiussione deve coprire anche quegli acconti intermedi, per quanto al momento del compromesso venga versato solo la caparra. Quindi diciamo che il notaio vigila anche su questo aspetto, possibilmente. Assolutamente, anzi le do una notizia che adesso è al vaglio un decreto che appunto prenderà in considerazione proprio le riforme della legge fallimentare per le ipotesi di crisi, e ci sarà una norma nella quale è previsto che il notaio che stipulerà obbligatoriamente il compromesso quando l'immobile è da costruire deve verificare non solo che la fideiussione esista, perché cosa che facevamo anche adesso, ma deve verificare che la fideiussione sia valida, cosa che naturalmente rappresenta un'ulteriore tutela. Allora le faccio sentire la domanda di Mauro da Rimini, poi sentiamo il giornale radio e a Mauro rispondiamo subito dopo le informazioni appunto dei colleghi della redazione, così il notaio Rubertelli ha anche tutto il tempo per pensare ad una risposta per lei. Mauro, eccoci, buongiorno. Buongiorno, io un'informazione, ho fatto un acquisto su un'abitazione su carta, quindi sì, un paio di anni fa. Sono stato dal notaio per fare il preliminare di vendita, per registrarlo, mi ha dato la fiducia regolare, tutto a posto, e ho avuto fuori il problema che su questo immobile c'era una citazione del vicino per un problema di confine. Questo il notaio è tenuto a controllarlo o meno questo? Immagino di sì, adesso il notaio Rubertelli ci pensa, ma... immagino di sì. Adesso secondo noi sì. Però non lo sappiamo, magari non è vero. Mauro, le rispondiamo dopo il giornale radio. Intanto ancora 5 secondi di tempo per ricordarvi l'800 24. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta, seconda parte di Cuore e Denari. Parleremo della casa a 360 gradi, no Nicoletta? Perché anticipavamo prima che oggi ritorna la salute, vien parlando. Ma anche mangiando. Anche mangiando. Allora, quindi... questo sarà il tema appunto dell'approfondimento di Cuore. Per quello che riguarda denari invece continuiamo la nostra chiacchierata questa mattina con il notaio Valentina Rubertelli, consigliere nazionale del notariato, con la quale stiamo facendo l'ABC dell'acquisto della casa in costruzione, l'acquisto della casa sulla carta. Eravamo ferme, notaio Rubertelli, al tema della fideiussione appunto bancaria, opportuna, obbligatoria, il rilascio quando deve avvenire e il controllo che fa il notaio di questa fase, diciamo, della compravendita, che nel caso dell'acquisto della appunto abitazione sulla carta è un po' più lunga da parte dell'acquirente. Detto questo, eravamo rimasti in sospeso con la richiesta fatta dall'ascoltatore di Rimini, quindi anche suo vicino di casa, notaio Rubertelli, magari glielo mandiamo direttamente. Allora il tema è, adesso tra l'altro non mi ricordo bene di che tipo di segnalazione gli era stata fatta, ecco, in che cosa aveva mancato quel notaio a cui si era rivolto. Una risposta veramente, una citazione di un vicino, qualcosa del genere. Sì, un atto di citazione. Ora la premessa essenziale è che ovviamente senza visionare le pratiche è impossibile dire chi ha ragione o meno, è stato svolto in maniera corretta oppure no. È un po' come chiedere a un medico mi dici se l'altro mi ha dato la diagnosi giusta, ma se io non visito il malato naturalmente non lo posso dire. Quindi, Nicoletta, astraendoci dal caso concreto, ma senti come si è calata nella parte il notaio Rubertelli, dovremmo invitarla molto spesso. Quindi voglio dire, se Insomma, non è carino parlare dell'operato di un altro notaio, questo l'abbiamo capito. Detto questo, secondo lei, comunque, se fosse sfuggito... Però in linea di massima, la richiesta è, ma se c'è un atto di citazione contro il mio venditore, il notaio se ne deve accorgere. La risposta è, se l'atto di citazione è stato regolarmente trascritto nei registri immobiliari, perché l'atto di citazione viene notificato dall'avvocato e poi dopo un po' di tempo arriva nei registri, ma se c'è stato un intervallo di tempo tale per cui io ho stipulato il 10, l'atto di citazione vi viene trascritto l'11, naturalmente il notaio non poteva avere la telepatia con l'avvocato che lo stava notificando. Allora diciamo che immaginiamo che avendoci chiamato il nostro ascoltatore di Rimini, forse quell'atto di citazione era arrivato un po' prima e lui ritiene che al notaio fosse sfuggito. Detto questo, dovremmo controllare. Se tutte le cose sono andate appunto come ci ha detto il, tenga presente che naturalmente le misure in conservatoria sono sempre molto complicate, non sto qui a dire che non si possa sbagliare, sto qui a dire che comunque il notariato garantisce con la propria assicurazione eventuali errori, quindi noi notai siamo assicurati. Certo, sulla fideiussione abbiamo detto tutto, notaio, possiamo passare alla fase della postuma decennale, un altro termine complicato però molto importante della compravendita sulla carta, notaio. Certo, questa è un'altra delle novità che ha introdotto la legge del 2005. In realtà la garanzia che un venditore, quando ha anche costruito l'immobile, deve prestare da codice civile, che quindi è sempre esistita, è quella che se l'immobile a un certo punto danneggia o il proprietario che l'ha acquistato oppure terzi perché c'è stata una rovina totale o parziale della casa oppure perché ci sono dei gravi difetti di costruzione dovuti per esempio a un vizio del suolo, che è un terreno franabile o cose di questo genere, già il codice civile prevedeva e prevede tuttora che il costruttore deve risarcire il danno che deriva da questa ipotesi, quindi parliamo di vizi macroscopici, vizi quindi non della crepa nel muro perché e né tantomeno di casi fortuiti o forse maggiore, siamo in periodi purtroppo in cui si parla tanto di sisma, quindi è evidente e che anche voi conoscete bene di queste cose, però in ogni caso normalmente succedeva, poteva succedere che nell'arco di questi 10 anni, perché la garanzia deve durare 10 anni dopo la fine dei lavori, magari l'impresa non necessariamente falliva, ma magari chiudeva, si cancellava dal registro delle imprese, quindi uno non aveva più a chi andare a bussare alla porta. E quindi si è previsto che il costruttore, il giorno in cui parliamo, siamo passati già alla fase del rogito definitivo, quindi siamo già andati ad acquistare la nostra casa, il giorno del rogito si deve consegnare questa postuma. Se il costruttore nel frattempo fallisce, chiude, allora io avrò l'assicurazione che mi risarcirà di questo danno. Certo, e questo è il motivo per cui si chiama postuma decennale. In genere chi si assicura, quindi, notaio Rubertelli, il costruttore quindi rilascia poi questa, trasferisce questa assicurazione all'acquirente o è l'acquirente che può stipulare questa assicurazione presso una compagnia che ritiene? No, assolutamente, è un'assicurazione che deve stipulare il costruttore e che va che viene sostanzialmente stipulata relativamente all'intero fabbricato e quindi poi viene diciamo vincolata a favore di tutti quanti gli acquirenti che ne beneficeranno, quindi è un onere a carico del costruttore anche economicamente parlando. Certo. Allora, intanto, visto che siamo all'assicurazione, quindi alla come dire, condizione eventualmente questa dovesse essere fatta valere appunto problematica, andiamo a sentire i casi proprio estremi che si sono verificati, visto che stiamo già andando verso il termine di questa parte appunto della nostra trasmissione, andiamo alle situazioni palesemente problematiche, quindi fallimenti immobiliari, quando magari abbiamo investito tanto del nostro denaro per acquistare una casa di questo tipo e però insomma l'interlocutore dall'altra parte non era propriamente serio e i nostri denari sono andati in fumo, tante situazioni che si sono verificate in passato. Direi di sentire Giorgio dalla provincia di Roma, poi se ce la facciamo anche Fabio da Latina. Giorgio, benvenuto. Buongiorno, probabilmente il mio intervento forse non è perfettamente tarato alla luce delle novità che il notaio ci stava riferendo. Comunque la mia esperienza è stata che nel 2003 ho comprato una casa in costruzione nella provincia di Roma e come me sono state costruite altri 190 acquirenti hanno comprato sul territorio ville, villette sparse. Medesimo costruttore, Giorgio? Diversissimi costruttori, tutte le licenze rilasciate dal comune, in questo caso era di Riano. Devo dire che ovviamente tutti abbiamo chiesto dei mutui alle banche, perché ci sono delle perizie per rilasciare il mutuo, e tutti si sono rivolti a ben 70-76 notai diversi, per cui insomma improvvisamente x anni dopo, 5-6 anni dopo, siamo stati oggetto di una operazione della magistratura che ravvisava una lottizzazione abusiva, per cui il compratore, chi ha il bene in mano, improvvisamente si trova perseguitato, sequestrato, e nell'inchiesta sono finiti anche i notai, che però al momento del rinvio a giudizio non sono stati, diciamo, inclusi, per cui noi acquirenti, circa 200 famiglie, siamo ancora in ballo dal 2000. Lei, Giorgio, abita questa casa oggi oppure non ha potuto? Sì, noi siamo stati, ci è stata affidata il bene, la custodia del bene. Però ancora avete lo strascico penale. Il primo grado del processo si è risolto con una prescrizione intervenuta, per cui il bene è stato dissequestrato e restituito, se non che poi c'è stato un ricorso in appello della procura. Guardi, generale. Giorgio, no, io la ringrazio. Adesso questo è un caso, lei ci dice addirittura. Esatto, 70-76 notai coinvolti, detto mamma questo. Mia. È come dire, insomma, tra tutti una quelli strage. Che dovevano verificare la regolarità di tutte le operazioni, quindi tante abitazioni su un medesimo territorio, lottizzazioni abusive. Tema mi farebbe piacere dare un piccolo chiarimento, perché abbiamo esordito all'inizio della nostra chiacchierata dicendo il notaio dice che tutto a posto, e io ho detto tutto a posto è un po' generico, certo. Però bisogna declinarlo. In effetti nella accezione comune, nella mentalità comune, il tutto a posto che garantisce il notaio è anche il tutto a posto sotto il profilo urbanistico ed edilizio. Ora la disavventura che ci ha raccontato il nostro ascoltatore è una disavventura che riguarda un vizio, che è quello della regolarità urbanistica, perché c'è una lottizzazione abusiva che purtroppo, mi dispiace dirlo, non è una verifica che spetta al notaio, nel senso che il notaio deve sicuramente sincerarsi che esistano tutti i permessi di costruire, che ci siano le varianti, e probabilmente nei rogiti che del nostro ascoltatore c'erano tutti citati questi estremi, però l'urbanizzazione dell'area e la verifica che quei disegni, così come presentati in comune, fossero poi stati rispettati nella realizzazione, sono delle responsabilità, certo, che spettano al direttore dei lavori, che spettano alle amministrazioni comunali, che devono verificare. Ma è evidente che quel caso lì è molto quindi più complesso. La legge non pone questo tipo, certo, di controlli, ma impone al notaio di citare tutti gli estremi, ma sono altre le autorità che devono verificare che qualcuno non faccia appunto il furbo e che quindi costruisca. Notaio Rubertelli, allora, lasciando da parte questo caso molto complesso, se Giorgio peraltro vuole scriverci una mail, sono certa appunto che il notaio Rubertelli la leggerà volentieri. Non ce la facciamo stamattina ad affrontare il tema del mutuo per comprare anche per comprare queste case. L'acquirente naturalmente può sottoscrivere un mutuo, generalmente è il mutuo che ha sottoscritto direttamente il costruttore che poi viene frazionato e viene fatto accollare appunto all'acquirente. Potrebbe, con determinate procedure, ma è un tema abbastanza complicato da affrontare questa mattina. Direi, per chiudere, se ce la fa proprio in meno di un minuto, notaio Rubertelli, il tema dei fallimenti immobiliari. La legge del 2005 che abbiamo citato è importante perché ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di un fondo di solidarietà finanziato con le famose fideiussioni per risarcire chi incappa nel fallimento. Come è andato questo fondo? Funziona? Non funziona? Questo fondo ha funzionato, nel senso che è nato per coprire quei soggetti che erano incappati in queste vicende poco gradevoli, in un'epoca in cui non c'era la tutela della legge del 2005, quindi chi aveva subito questi disastri tra il 93 e il 2005. Sono state presentate le domande alla Consap, sono stati chiusi i termini e sono state anche stabilite le aree aree territoriali e i tetti sì. di copertura a seconda del flusso dei finanziamenti che provenivano dalle varie fideiussioni che nelle varie aree sono state rilasciate. Quindi naturalmente è un qualcosa che attualmente non esiste più perché è intervenuta la legge e quindi è la legge che previene piuttosto che curare. Certo. Il fondo è stato fatto per curare. Grazie, grazie al notaio. Ha visto un'altra metafora. Ma io medica. Fare il medico. Ah, vede, come il nostro ospite qui. Voleva fare il notaio? Il medico. Ah. Proprio come il professor Danese che è qua in studio con noi, responsabile del Centro per la Ricerca e la Cura delle Malattie Infiammatorie Croniche, che salutiamo. Perché è già stato in qualche modo incuriosito da alcuni dati e da alcune espressioni del nostro notaio, okay, vero professor Danese? Intanto buongiorno, sì, buongiorno. Il nostro specialista del mese, la salute viene parlando. E mangiando, perché qui parliamo di intestino. Ma vedi che non è stato un refuso prima. Era una sorta di lapsus, però voluto, ricercato. Allora, sì, quando ho sentito la storia dei 76 notai, ho pensato sì. che ci sono così tanti pezzi dell'apparato digerente, così tanti organi nella nostra pancia, che in realtà raccapezzarsi è sempre un pochino difficile. Vedi? Quindi ci vuole una bussola. Un po' di intreccio, vedi? Notaio Rubertelli, allora ascolti anche la seconda parte della trasmissione, che sono certa assolutamente le sì, grazie. Notaio, a presto, perché ci sentiamo presto. Tu hai parlato di casa con il notaio, ma la pancia è la casa della nostra salute. Lo dice la saggezza popolare, professor Danese, lo confermano gli studi e la ricerca. Spesso si dice che siamo quello che mangiamo, in realtà oggi nel 2017 la nostra flora è quello che mangiamo, ma magari poi ne parliamo di questo. E di sicuro a me piace sempre ricordare che molte persone dicono che l'intestino è un tubo lungo 7 metri. In realtà, a me piace dire, è grande quanto un campo da tennis. È la superficie più grande di contatto col mondo esterno. La storia del campo da tennis è perché ci sono i villi che permettono l'assorbimento e se lo srotolassimo in maniera ideale... Quindi come sta il vostro campo da tennis privato? Come lo tenete? 800 24 00 24. Ve lo abbiamo anticipato, dopo il mese dedicato alle articolazioni, per tutto il mese di marzo parleremo di pancia. Professor Danese, parlare di pancia vuol dire parlare di tante cose. Intanto iniziamo a mettere una mano proprio sul nostro ombelico, perché tanti sono gli organi di cui si occupa il gastroenterologo, che è lo specialista della pancia. Esatto, ci vuole una vera e propria mappa, una bussola che ci aiuta un pochino a orientarci, soprattutto quando i pazienti vengono con tanti sintomi che sono sovrapponibili. Il motivo per cui i 7 metri devono andare tutti arrotolati, un po' come un gomitolo, in uno spazio così piccolo, ci dice spesso che la bussola non sempre, a seconda di come sono distribuiti, ci aiuta ad orientarci. Quindi ci vuole veramente... Allora, noi oggi vi forniremo una bussola, vi diamo come sempre tante possibilità di intervenire all'800 0024 0024. Potete mandare anche un WhatsApp vocale che Laura Vanossi e Marco Lombardo poi trasmetteranno durante la trasmissione. Abbiamo già messo al lavoro il professor Danese, perché registreremo anche delle pillole, che alcune rispondono un po' a dei quesiti generali, alcuni invece sarete proprio voi a suggerirli. Potete naturalmente scrivere alla nostra mail oppure intervenire con un WhatsApp o farci sentire la vostra domanda. Cerchiamo di fare educazione. Educazione come informazione, partendo da alcuni segnali, quindi dalla nostra mappa, cerchiamo di orientarci, sentiremo i segnali che la nostra pancia ci manda, proveremo a toccarla, sentirla, a volte tesa, a volte gonfia, borbotta, ci parla in qualche modo, interpretare il suo linguaggio è molto è assolutamente fondamentale. Parleremo anche poi di malattie croniche intestinali, lo faremo nel corso del mese, perché il professor Danese è un esperto di riferimento. Ma intanto, professor Danese, lei ha parlato di bussola, noi abbiamo cercato di orientare i nostri ascoltatori raccapezzandosi su una serie di segnali che la pancia ci manda con una nostra scheda che poi commentiamo insieme. Andiamo! Il gonfiore. Quando dici ho la pancia gonfia? Dopo i pasti o in altri momenti della giornata? È una sensazione o devi allentare la cintura o sbottonare i pantaloni? Il dolore è localizzato in un punto particolare o interessa tutto l'addome? Noti che si acuisce in concomitanza dei pasti o si manifesta di preferenza in occasione di eventi stressanti? La tensione. Ti capita di sentire la pancia tesa e contratta? Toccandola, questa sensazione è confermata o invece al tatto risulta normale? Il movimento. La tua pancia sussulta, si contrae e ti costringe a correre in bagno? E una volta assecondata, è soddisfatta o dopo poco ti fa correre di nuovo? La pesantezza, alias la fatica a digerire, quando si dice il classico peso sullo stomaco. Allora, se vi siete riconosciuti, se vi ritrovate in uno più situazione, questa è la puntata, anzi il mese che fa per voi, avremo tempo di parlarne, ma intanto battete un colpo se ci siete, 800 24 00 24, 349 238 66 per i vostri messaggi, per i vostri WhatsApp, per i vostri messaggi vocali. Professore, allora, nell'attesa di sentire la voce dei nostri ascoltatori, che cosa le dice la nostra scheda? Mi è piaciuta molto quando due aspetti. Il primo, quando mangi ti senti gonfio. In realtà è normale che spesso quando si mangia l'intestino inizia a muoversi. È una cosa tipica dei nostri giorni, che si associa spesso all'alimentazione frettolosa, è il masticare in fretta, mandar giù in maniera molto rapida senza masticare in maniera appropriata, e bisogna ricordare che spesso ciò che accade è che ingoiamo tanta aria, ecco perché spesso la pancia si gonfia. Quindi basterebbe semplicemente masticare un pochino di più e questo già aiuta la digestione. Ecco, ma parlare al telefono magari mentre si pranza, si cena. È vero. Mamma mia. Ma professor Danese, a proposito del momento, del tempo, spesso la sensazione di gonfiore l'avvertiamo dopo pranzo, a volte in momenti non sospetti. C'è chi l'avverte ad esempio anche dopo la palestra, oppure nel cuore del pomeriggio, quando non c'è nessuna relazione con il pranzo o la cena. Siamo, come si dice, a stomaco vuoto, ma la nostra pancia si gonfia. Che le succede? Dipende spesso da quello che abbiamo mangiato o dal tipo di alimentazione che facciamo. Quando ho detto all'inizio che siamo quello che mangiamo, o nel 2017 la nostra flora è quello che mangiamo, molto spesso un'alimentazione ricca di carboidrati favorisce il gonfiore addominale, o soprattutto di zuccheri. Banalmente, ci sono tante persone che masticano tante gomme da masticare. Questo aiuta il gonfiore per due motivi. Peggiora il gonfiore per due motivi. Uno, perché ingoiamo tanta aria. Sì. E due, perché spesso ci sono degli zuccheri nelle gomme che vengono fermentati dalla flora intestinale. Allora, dal fattore tempo passiamo al dolore. Come si presenta il dolore? Perché molte volte immagino che anche per un medico sia difficile capire esattamente la tipologia, perché può essere il crampo, può essere una fitta, può essere una sbarra, insomma sulla pancia c'è da sbizzarrirti. Voi dovete essere anche un po' psicologi. Esatto, soprattutto dal tipo di insorgenza di dolore già abbiamo delle indicazioni. Là dove si localizzi, per esempio a destra, in maniera acuta, bisogna sempre ricordarsi che ci sono tanti organi, come ho detto all'inizio, non c'è solo l'intestino, c'è la colecisti, c'è l'appendice, quindi ci possono essere delle indicazioni, dei tipi di dolore che già sono la spia di qualcos'altro. In realtà il dolore dell'intestino è tipicamente un dolore cronico, un dolore sordo, non sempre si riesce a localizzare. Intanto ci aiuta, ritorniamo alla nostra mappa a localizzarlo, perché allora noi mettiamo questa mano, il palmo sull'ombelico, ok, ci siamo, poi abbiamo il pollice che va in su. Perfetto. Giusto? E mentre mettiamo, vado, faccio così, che così intanto abbiamo anche. Faccio la gastroenterologa. Pollice su e il mignolo verso il pube. Dove allora, dove nella siamo? Parte alta iniziamo a indicare lo stomaco e l'esofago. Ok. Poi, ovviamente, sotto, diciamo, c'è anche vicino al pollice c'è il pancreas. Quindi, sì, il dolore a sbarra, tipicamente il dolore della pancreatite, il dolore che indica verso, per esempio, l'indice, può essere il sintomo di un'esofagite. Fagite che può irradiarsi più in alto, oppure di una gastrite o di una duodenite. Quindi sono le alte vie dell'intestino. Sto ancora a farle da modella? No, va benissimo. Potessi far vedere quello che succede qui dentro. No, ma ci stanno guardando, perché abbiamo la diretta. La diretta Facebook. In realtà poi la mano su tutto l'ombelico è tutto quel gomitolo che dicevo. Quindi c'è il piccolo intestino al centro e c'è il colon, che è una specie di cornice. Quindi adesso deve essere bravissima a mettere il braccio come una cornice, esatto, sulla mano. Ok, così? Ci siamo quasi. Ok, la cornicetta. E il colon è tutta la cornice, quindi a seconda poi del pezzo di colon interessato ci possono essere dei sintomi diversi. che questo colon ce ne dà di problemi, eh? Già ha un caratteraccio, perché si irrita facilmente. Se il vostro problema è l'estate, continuate a chiamarci e a scriverci, perché adesso sono irritati anche i mercati, perché sono irritabili. Oggi sono di ottimo umore, non hanno il mal di pancia. Vedi, guarda, sapevano che c'era il professor Danese che li avrebbe messi a posto. Hanno masticato bene ieri sera. Andiamo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Soffro lo stress, io soffro lo stress, sono stanco e fuori forma, suono in una boy. Allora Deborah balla adesso, perché io ho fatto un po' la modellina, tu fai la ballerina, fai le misure dell'intestino. Siamo seri, perché abbiamo con noi qua un grandissimo esperto, il professor Silvio Danese, Humanitas, ci accompagna in questo mese dedicato alla pancia, quindi alla salute del nostro stomaco, del nostro intestino. Abbiamo fatto una mappa prima di dare la linea ai mercati. Tantissime le domande, continuate a chiamarci, a scriverci. Adesso daremo naturalmente voce ai vostri dubbi, alle vostre esperienze e anche suggerimenti, perché abbiamo ripreso a parlare di pancia sentendo questa canzone che rimanda allo stress, perché c'è un legame molto stretto tra stress e anche aumento della pancia, non solo quello della circonferenza addominale, ma anche tensioni, la pancia che gonfia. A volte non è solo una sensazione, ma abbiamo anche proprio la necessità di allentare un po' la gonna o il pantalone. Un nostro ascoltatore ci scrive che la pancia gli si è gonfiata dopo aver visto la partita del Napoli. Sì. Cade a fagiolo, professor Danese, perché? Perché in genere è vero che a me piace definire l'intestino come il secondo cervello, questo è stato detto da tanti, ma il contrario è che la parola intestino, quando io parlo ai miei pazienti dico in, dentro, testa piccola, testino, abbiamo un secondo cervello, è lì la vera etimologia, se non ci pensa, perché tutto quello che è stress esterno, in qualche modo ci sono tante persone che lo scaricano sulla pancia, sulla motilità, quindi con tutti quei sintomi di gonfiore, di dolore, o c'è chi va in diarrea, e quindi di sicuro l'intestino risente tantissimo da tutti quelli che sono gli stimoli esterni, non è solo stress dei nostri giorni, quello del lavoro, ma anche per esempio uno stress fisico. Tanti pazienti riferiscono, per esempio, che quando hanno quando bevono acqua fredda o hanno un colpo di freddo, hanno subito il bisogno di andare in bagno. Quindi sono tanti le voci di stress che in qualche modo influiscono sui sintomi intestinali. E anche tanti segnali che la nostra pancia ci manda. Alcuni sono assolutamente fisiologici, se così possiamo chiamarli. Altri invece dobbiamo imparare a conoscerli per osservarli con particolare attenzione. Ad esempio dei cambiamenti. Ci segnala, professor Danese, quali sono i sintomi che non dobbiamo sottovalutare? Ci sono delle bandiere rosse, per esempio. A proposito, vedi, di notaio. Stamattina ritorniamo sempre lì. Ognuno ha le sue bandiere rosse. Perché il notaio prima diceva che il preliminare di vendita in quel contesto là è come mettere una bandierina rossa sulla casa ancora in costruzione, su una casetta che non c'è. Se ci sono dei sintomi più importanti, come per esempio la presenza di sangue con le evacuazioni, anemizzazione, perdita di peso, oppure c'è familiarità per malattie più importanti, allora bisogna rivolgersi allo specialista. Quindi bisogna trascurare questi campanelli di allarme. Cambiamenti delle abitudini del nostro intestino. La stipsi è un problema abbastanza comune. A volte la stipsi si alterna ad episodi di diarrea. Quanto i cambiamenti delle abitudini intestinali devono preoccuparci o attenzionarci? Bisogna sempre valutare se questi si verificano in maniera improvvisa o meno, perché se si verificano in maniera improvvisa e poi cronicizzano, allora dopo un pochino bisogna rivolgersi comunque allo specialista per essere sicuri che non ci siano delle malattie importanti che nascondono questi sintomi, proprio perché quello che abbiamo detto all'inizio, la pancia ha tanti organi, certo. E quindi può essere l'esperienza espressione di numerosi fattori. Anche banalmente, quando prendiamo farmaci, no? L'intestino può risentire dell'assunzione di alcuni farmaci. Tante persone prendono gli antidepressivi, prendono per esempio gli antinfiammatori. Chi li prende in maniera cronica può avere dei problemi all'intestino, allo stomaco. Quindi bisogna sempre essere attenti non solo a quello che si mangia, ma a quello che viene introdotto attraverso il campo da tennis. Allora, intanto abbiamo Marcello da Napoli, Maria Luisa dalla provincia di Torino. Andremo anche a rispondere agli ascoltatori che ci dicono: sì, ma quando bisogna fare il tagliando alla pancia, troppi organi? In realtà, insomma, gli esami vanno fatti, ci sono degli esami che ci danno un quadro della salute della nostra pancia. Non bisogna eccedere negli esami, ma quelli che abbiamo a disposizione, che ci permettono di fotografare bene la situazione, è importante conoscerli e farli. Marcello, buongiorno da Napoli. Buongiorno. Com'è andata la sua pancia con la partita? Sento un po' male, un po' male. Ma noi vede che abbiamo invitato il professor Danese, che è super partes, e quindi anche per chi ha avuto problemi ieri con la partita, eccolo qua. Intanto, Marcello. Sì, professore, buongiorno a tutti e grazie per avermi dato questa possibilità. Buongiorno. In effetti io mi ritrovo proprio in tutti i sintomi che voi avete spiegato all'inizio della trasmissione, quindi gonfiore addominale, tensione accompagnato da dolore. Mm. E poi purtroppo devo aggiungere anche un reflusso. Marcello, vogliamo toglierci il reflusso? Però mi dà molto fastidio, nonostante, volevo aggiungere al professore, uso degli antiacidi e uso anche lo sciroppo, non so se posso dire il nome. Vabbè, ma intanto il professore immagino che abbia capito un po' un sintomatico. Senta, allora Marcello, le direi venga qua da noi. Comunque, quando si dice professor Danese, le ho tutte. Esatto. Ecco, un caso così... Ma è molto frequente un caso di questo tipo, perché da come riferisce la sintomatologia sembra una malattia funzionale, che significa spesso che la funzione del canale digerente è alterata. Infatti non a caso il paziente riferisce non solo problemi alti ma anche bassi, e quindi la funzione dell'esofago non va bene, in quanto la motilità favorisce il reflusso, e lui riferisce sintomi da reflusso, così come anche l'alternanza della funzione della regolarità intestinale con stipsi e diarrea, che può portare gonfiore. Questi sono sintomi classici dell'intestino irritabile, però è chiaro che vanno sempre approfonditi con gli esami generali del sangue, con una visita gastroenterologica, e eventualmente, a seconda dell'età del paziente, a seconda della presenza o meno di famose bandiere rosse che dicevamo prima, con degli esami più specialisti. Ma una prima indicazione alle, e sono tante persone che si ritrovano un po' descritte nel caso di Marcello, che cosa si può parlare con il medico? È sempre una buona idea, soprattutto se, come si dice, il sintomo persiste. Però poi lei sa bene, professore, che noi tendiamo a curarci un po' da noi, da soli, e quindi sentire il consiglio dell'amica, del cugino, e la prima cosa che tocchiamo è l'alimentazione. Proviamo a vedere se togliendo magari i carboidrati, oppure le cose, i prodotti lievitati, il caffè o il glutine, o bevendo l'acqua naturale invece che gasata, magicamente la nostra situazione si risolve e a volte qualche beneficio c'è. Professore, intanto che cosa suggerisce a chi ha questa confusione di sintomi e di malesseri a livello della pancia? In genere il fai da te non bisogna in genere farlo per lungo tempo, nel senso che se si individuano degli alimenti che possono dar fastidio per brevi periodi possono essere eliminati, però se si presenta in maniera ricorrente la sintomatologia associata ad alcuni alimenti o ad altri, è fondamentale rivolgersi allo specialista. Spesso quando vediamo che con l'introduzione del glutine i sintomi vengono peggiorati, bisogna aspettare che ci possa essere un'intolleranza alla celiachia. Se con il lattosio si ha soprattutto gonfiore o diarrea, intolleranza al lattosio, queste sono le cose più ricorrenti. Oppure molto spesso ci sono tanti pazienti che riferiscono, con l'ingestione dei carboidrati, il gonfiore addominale. Molto spesso nella sindrome dell'intestino irritabile tutti i carboidrati o la frutta per esempio vengono sovrafermentati. Dipende poi anche dalle porzioni, perché in realtà non gli eccessi ovviamente fanno male, però moderare le porzioni in alcuni casi può già risolvere di per sé la sintomatologia. Andiamo a Maria Luisa dalla provincia di Torino. Buongiorno Maria Luisa, benvenuta. Sì, buongiorno anche a voi. Beh, con questa ultima telefonata io posso dire di avere gli stessi sintomi di Marcello. Ho sentito quello che ha detto il professore. Diciamo che da qualche mese, oltre a tutti questi problemi, pur seguendo una dieta variata, sana, ho lo stomaco molto dolorante, nel senso che mi pare che mi abbiano preso calci nello stomaco, e inoltre una bocca amara che mi toglie veramente la voglia di vivere, perché giorno e notte mi sveglio anche di notte con questa bocca amarissima, sgradevolissima, oltre a un senso di nausea che riesco a usare. Così, alle volte ho antinausea. Perché insomma la pancia, Maria Luisa, la pancia è in subbuglio, ma a leggere veramente i messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori, devo dire che proprio quello che si lamenta di meno è quello che mi scrive: ho un po' la pancia gonfia dopo aver mangiato. Professor Danese, certo che lei si è scelto una specializzazione bella tosta, come si dice. Beh, un pochino, come dicevo, bisogna raccapezzarsi con la bussola. Con la bocca amara, per esempio, i sintomi che riferisce la signora, di sicuro una delle cose più comuni è la malattia del reflusso gastroesofageo. Bisogna vedere il paziente per capire del perché c'è la malattia del reflusso. Per esempio, il sovrappeso può essere uno dei fattori che lo può scaturire, oppure se è presente un'ernia iatala. E il fatto di avere la bocca amara potrebbe essere l'espressione di una gastrite biliare, quindi la presenza di bile nello stomaco. La bile tipicamente è molto amara, quindi in realtà ci sono tanti. La nausea è un sintomo che si associa tipicamente alla malattia del reflusso, quindi di sicuro... Insomma, non l'hanno messa lì in centro a caso la pancia, perché veramente tiene le redini della nostra salute. Sembra un po' tipo il bersaglio con le freccette. Vedi, anche il nostro sistema immunitario dov'è? Bravo. Nella, ecco, io volevo fare il domandone, mannaggia. 800 24 00 24, vi ha subito suggerito. Magari qualcuno non ha sentito. Ma vi suggerirà anche altri consigli, indicazioni. Voi continuate a scriverci, perché La Salute Viene Parlando è un'iniziativa che Cuore Denari fa insieme naturalmente ai grandi esperti di Humanitas, ma siete voi i diretti protagonisti di questa bella iniziativa, che vuole raccontare proprio la salute attraverso la voce. E questo ci piace molto. Vi aspettiamo. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Cuore e Denari. Pancia, misurati la pancia. La pancia è la casa della nostra salute, direi anche la culla della nostra salute, ancora di più perché nella pancia si alimenta e nutre il nostro sistema immunitario. Esatto, fin dai primi giorni, quando iniziamo, il nostro intestino viene colonizzato in maniera regolare dalla flora intestinale, e il sistema immunitario intestinale impara a riconoscere tutto il mondo esterno, impara a essere educato, a essere tollerante, cioè a non creare una risposta infiammatoria verso il mondo esterno. Quindi impara a riconoscere ciò che è buono da ciò che è cattivo. E ovviamente questo è un sistema di educazione che prosegue quando iniziamo a mangiare, quindi dopo lo svezzamento con l'introduzione di tutti gli alimenti. Questo continua sempre, anche da adulti, quando mastichiamo, per esempio, fin dalla masticazione, la tolleranza, quindi l'educazione a riconoscere gli alimenti, a non provocare una risposta infiammatoria, inizia fin dalle prime vie, dalle altre vie. Perché? Non si finisce mai di imparare. E intanto andiamo da Walter dalla provincia di Pesaro Urbino. Vorrei poi parlare, se ce la facciamo, anche, abbiamo detto che il colon ha un carattere un po' particolare, si irrita, ma può essere anche bitorzoluto. Tante domande sui diverticoli, professor Danese, ne parleremo. Walter, buongiorno. Buongiorno. Eccolo lì, da Pesaro Urbino, già ci piace, vero? Sì. L'intestino è meglio predisposto a svolgere le sue funzioni in determinati orari della giornata, per cui è meglio rispettare gli orari classici, oppure solo una mia sensazione? Però adesso non è che possiamo agevolarli in tutto, questo intestino, che si dia da fare, che faccia il suo, professor Danese. Però sono delle belle domande, perché in realtà soprattutto al mattino inizia a mettersi in moto tutto l'organismo e anche il nostro intestino. Poi spesso non esistono degli orari, questo per dirlo in maniera con poche parole, però quando si mangia si dovrebbe sfruttare, soprattutto per i pazienti che soffrono di stipsi, il normale riflesso gastrocolico, per cui praticamente cosa vuol dire? Che lo stomaco inizia a ricevere il cibo, è la chiave che inizia a mettere in moto la parte bassa, quindi il colon essenzialmente. Allora, abbiamo una domanda dalla diretta di Facebook, abbiamo parlato di esami, di controlli, e la domandona è: quando fare la colonscopia? Un esame che ci è molto antipatico, perché tutti pensano alla preparazione, poi devo dire ci sono degli esami che sono un pochino meno invasivi, anche se attualmente è molto cambiato rispetto agli anni precedenti, ma quando farla? In realtà lo screening va fatto in genere dopo i 50 anni. È chiaro che poi ci sono i famosi campanelli di allarme o le bandiere rosse di cui parlavamo prima, allora lì in quel caso va fatto laddove ci sia l'indicazione del gastroenterologo. Esiste anche la colonscopia virtuale. Sì, questo è il sogno di tutti, ma adesso c'è anche una piccola pillolina che ovviamente, esatto, ma il futuro sarà sempre meno invasivo, quindi bisogna essere molto confidenti. Però la preparazione ce la fate fare sempre. Purtroppo sì, è quella la parte più scocciante. Perché l'intestino deve essere pulito. Esatto. Quindi di lì non si scappa. Pilloline, non pilloline, 800 24 00 24, gli ultimi minuti di trasmissione, devo dire che però ne abbiamo ancora 6, Deborah, possiamo prendercela comoda per affrontare un altro aspetto del colon che ci interessa. Io ho detto, oltre a essere irritabile, ad avere un brutto carattere, può essere anche bitorzoluto, perché volevo accennare, ma ne continueremo a parlare naturalmente nelle nostre pagine, al problema dei diverticoli, che sono delle piccole ansette, delle piccole tasche. Tasche. Praticamente, o delle orecchiette, questa è la per stare, esatto, appunto alla salute, viene mangiando, sono parlando. Delle piccole taschine che si formano nella parete. In genere è una malattia che colpisce le persone over 50 e spesso accade che queste taschine sono delle raccolte in cui l'intestino in qualche modo sovrafermenta aria, quindi molti dei sintomi, il gonfiore, il dolore, è perché nei diverticoli la flora intestinale magari rimane un pochino più ferma e fermenta di più. Per questo motivo una delle cose che facciamo tipicamente in medicina è prima di tutto quello di aiutare l'intestino a muoversi meglio, quindi l'integrazione con le fibre, il bere molta acqua, i canonici 2 litri al giorno. Chi ha i diverticoli o la cosiddetta diverticolosi, che è soltanto una alterazione anatomica, questo va ricordato, non è una malattia, non è malato, esatto, deve consumare più fibre, proprio perché il movimento aiuta l'intestino a mantenersi più pulito. È chiaro che poi quando iniziano a esserci i sintomi, allora ci può essere un po' di infiammazione, e allora a quel punto le cose sono diverse e bisogna iniziare a utilizzare dei farmaci veri e propri. Ecco, lei ha toccato una parola, fibre, perché tutti noi sappiamo che la nostra alimentazione deve essere più ricca di fibre, per cui vengono consigliati i cereali integrali, però tante persone mi scrivono e mi dicono sì, però voi dite mangiate integrale, ma la mia pancia non ne vuole sapere. Che cosa si fa quindi per conciliare quelle che sono le indicazioni di una dieta che è salutare con i gusti della nostra pancia, che non collabora? Le famose 5 porzioni di frutta e verdura al giorno sono sicuramente un'ottima indicazione. Poi è fondamentale non soltanto consumare le fibre, ma anche bere. Questo è uno degli aspetti fondamentali. Tanti pazienti dicono io consumo le fibre, però poi alla fine quando gli si chiede quanto bevi, ti dicono ma una bottiglietta da mezzo litro al giorno, quello è troppo poco, oppure un bicchiere al pasto e basta più. Invece bisogna cercare di pulire continuamente. Cecilia, buongiorno, ci chiama da Pordenone. Buona giornata, Cecilia. Grazie anche a voi. Io mi ritrovo in tutti i sintomi, è stato diagnosticato il colon irritabile e anche gastrite. Volevo dire un'altra cosa, nel senso che qualche settimana fa ho avuto un po' di influenza, ho avuto tosse, la tosse che pensavo una tosse influenzale. Sono andata dal medico, mi ha visitato e mi ha detto che questa tosse dipendeva dalla gastrite. È possibile? Grazie a questa bella domanda in chiusura, ma poi le nostre chiacchierate continuano sulle pagine dell'iniziativa. Professor Danese. In realtà la tosse è molto spesso associata ai cosiddetti sintomi della malattia da reflusso, che non sono quelli classici. Che avere la tosse, avere la... Il raspino. Esatto. Si può chiamare, si può dire. Si dice così. Come dite voi, raspino, raspino? Il raspino. Esattamente, sono tutti, oppure alterazioni del tono della voce, sono tutti sintomi associati alla malattia da reflusso, proprio perché il reflusso, l'acidità può irritare le corde vocali e le prime vie, la gola. E anche i dentisti spesso fanno un po' diagnosi di reflusso, perché anche i denti, vero, possono lo smalto sì, dei denti può essere, quindi anche una tossetta notturna potrebbe essere un problema che arriva dalla pancia. Esatto. Allora, professore, intanto abbiamo detto dei diverticoli, sul colon irritabile ci sono delle novità, delle attenzioni, delle precauzioni da adottare? C'è una cosa molto nuova, che è quello di cercare di eliminare o di introdurre alcuni alimenti, i cosiddetti FODMAP, che sì, sono tanti piccoli zuccheri che non siamo sempre in grado di digerire, che richiamano acqua, rimangono nel lume intestinale e creano gonfiore e diarrea. Infatti esiste, adesso abbiamo una bella telecamera, quindi io la metto, ci sono tante app con un semaforo, rosso e verde, forse non si vede, però il rosso e il verde sono alcuni alimenti buoni e alcuni alimenti cattivi. È chiaro che le limitazioni alimentari vanno sempre prese con le pinze, perché ogni persona ha una storia a sé, ha una tolleranza individuale al tipo di cibo, ai quantitativi, e quindi il fai da te va bene per piccoli periodi, ma non va fatto in maniera continuativa. Rivolgersi a un dietista è sempre la soluzione migliore. Allora, ci scrive Fabrizio da Milano. Lo dice. Intanto complimenti per la trasmissione. Bravo. Minimo sindacale. La sua fidanzata aveva problemi di aria nell'intestino. L'hanno fatto insieme. Cominciato a bere la mattina un bicchiere di acqua con un cucchiaino di aceto di mela, come avete consigliato, ed è passato tutto. Un consiglio che è stato dato dagli esperti di Cuore Denari e che ha funzionato con Fabrizio. Se lei ha un altro trucchetto? Ma quello più scientifico della dieta del FODMAP può aiutare per piccoli periodi. Però questo, se ha trovato rimedio semplicemente bevendo, vuol dire che era una delle cose che mancavano. Almeno 2 litri al giorno, la nostra pancia ci ringrazia. Un e mezzo siamo felici, gasato o naturale? Se si tollera la gasata vanno benissimo entrambe. Allora, tornerà a trovarci il professor Danese, ma voi continuate a scriverci, riporteremo le vostre domande con la risposta del nostro esperto sulle pagine. Intanto, buona giornata. Buona grazie. Giornata, arrivederci. Grazie, noi torniamo domani con Investire Informati e tante altre belle cose che abbiamo sempre in serbo per voi. Buona giornata a tutti. Buon pomeriggio.